Salva Danaio di Deborah Rosciani. Giornata da Deborah Rosciani, bentornati a Salva Danaio. Oggi torniamo a parlare di temi di risparmio. Come saprete, questo, ve ne riferiamo praticamente da qualche giorno a questa parte in ogni momento, è il periodo delle relazioni annuali dei responsabili di autorità, organismi di controllo, associazioni. Oggi torniamo sulla relazione tenuta due settimane fa dal presidente uscente della Consob, Lamberto Cardia. Cardia ha toccato fra gli altri un punto molto interessante relativamente alle scelte di risparmio e di investimento delle famiglie italiane, un punto che appariva già evidente da qualche tempo, almeno da un paio d'anni. Cardia ha messo in luce come le famiglie siano sempre più orientate a sottoscrivere obbligazioni bancarie. Una tendenza che si era cominciata a vedere con la crisi dei fondi comuni di investimento, attribuita in larga parte allo stesso sistema bancario, che ha chiaramente orientato le scelte di investimento della clientela verso altre tipologie di prodotto. Scusate il naso, ma stamattina ho un attacco di raffreddore di probabilmente anche matrice allergica. Allora, poi con la crisi finanziaria generale le obbligazioni bancarie hanno cominciato ad essere collocate ancora con maggior forza, perché vendute con la cosiddetta garanzia di Stato, che non esiste, poi specificheremo anche bene questo punto, questo aspetto, e quindi si è completamente trasformato il panorama. Un ambito di investimento che prima era addirittura considerato rischioso ed era solo d'appannaggio dei cosiddetti investitori istituzionali, adesso si è molto diffuso anche tra i piccoli risparmiatori, tanto che appunto Cardia ha chiaramente detto è ulteriormente aumentato nel corso dell'ultimo anno il peso delle obbligazioni bancarie sulla ricchezza finanziaria delle famiglie, e questo sta suscitando un certo dibattito fra i professionisti del risparmio. Allora, noi stamattina parleremo di questo argomento per chiarire intanto che visto che sono appunto prodotti molto diffusi fra risparmiatori, nessuno deve aver paura di niente, ma solamente banalmente, scusate, sottoscrivere questi prodotti appunto con maggior consapevolezza. E allora i suggerimenti del caso ce li faremo dare naturalmente da due esperti del settore. Saluto e ringrazio per essere con noi questa mattina Matteo Trotta, analista finanziario di Consultic, una società di analisi indipendente che conosciamo molto bene, i cui esperti scrivono spesso e volentieri, anzi frequentemente quasi tutte le settimane, su Plus 24 del Sole 24 Ore. Trotta, buongiorno, bentornata a Salva Danaio. Buongiorno a tutti. E poi ringrazio di essere con noi questa mattina per la prima volta nella nostra trasmissione, spero naturalmente non sarà l'ultima, l'avvocato Carlo Carbone, avvocato cassazionista, dottore commercialista, revisore dei conti, ma soprattutto autore del libro Le ragioni dei risparmiatori nelle cause contro le banche per la cessione delle obbligazioni corporate. Avvocato Carbone, buongiorno. Buongiorno a voi. E allora, per chi ha in portafoglio un prodotto di questo tipo, io vorrei che stamattina mi raccontassi intanto con quale tipo di approccio alla banca lo ha sottoscritto, con quale tipo di approccio da parte della banca è stato sollecitato. Ha capito bene, ha letto il prospetto informativo di questo prodotto? Che aspettative ha anche da un investimento di questo tipo? Chiamateci all'800 24 00 24 per raccontarci la vostra esperienza in merito, oppure scriveteci al 349 238 6666. Prima di parlare di obbligazioni bancarie, ma anche di obbligazioni strutturate, che lo stesso attraverso la banca, dalla banca passano, andiamo a vedere stamattina cosa succede in borsa, perché dopo i rialzi di ieri, come al solito, si ingrana la marcia indietro abbastanza rapidamente. Oggi gli indici sono in calo di circa un punto e mezzo su tutti i versanti geografici europei. Parigi sta perdendo l'1,45%, Francoforte perde l'1,19%, Londra meno 1,25%, Milano fa meglio delle altre, perde lo 0,9%, positive Autogrill più 0,7%, A2A più 0,4%, Snam più 0,29%, Terna più 0,25%. Quindi vedo già stamattina un orientamento chiaro sui titoli difensivi, mentre stanno scendendo i cementieri e di nuovo le banche, che invece ieri erano cresciuti parecchio. Buzzi meno 3,35, Tenaris meno 2,42, Saipem, quindi non su tutti i difensivi vanno gli investitori stamattina, Saipem perde il 2,21, Mediolanum meno 2, Parmalat meno 2, meno 2 anche per Cire Mediaset, quindi in difficoltà anche gli editoriali, Ubibanca meno 1,76, Generali meno 1,51%. Euro su dollaro a 1,25,65. Questo è tutto ciò che riguarda la borsa questa mattina. Peraltro l'euro aveva toccato i massimi da 7 settimane, poi appunto è tornato indietro, e direi di andare subito al tema di oggi. Parliamo di obbligazioni bancarie. Gli italiani amano il rischio nei propri investimenti? Stando a quanto ha rilevato di recente la Consob, la Commissione di Vigilanza dei Mercati Borsistici, sembrerebbe proprio di sì. Mentre gli investitori internazionali sono sempre più avversi al rischio, in Italia il mercato delle obbligazioni bancarie vendute ai risparmiatori continua a crescere. Le banche emettono sempre più bond e i piccoli investitori ne fanno incetta, nonostante i rendimenti siano bassi tanto da non battere in alcuni casi quelli dei bot. La crisi finanziaria sembra dunque aver influito anche sulle scelte di risparmio e di investimento degli italiani. La quota di ricchezza investita in prodotti e strumenti finanziari, considerati rischiosi, è infatti cresciuta dal 38% registrato a fine 2008 al 41% di fine 2009. La passione tutta italiana, in particolare per i bond bancari, è confermata anche dai numeri. Nel 2009 le banche italiane hanno infatti emesso 184 miliardi di euro di obbligazioni, in linea con il 2008. Ma a fronte di un ammontare invariato, sono cambiati gli acquirenti. Gli investitori istituzionali hanno comprato 10 miliardi di bond in meno rispetto al 2008, meno 19%, mentre i piccoli risparmiatori hanno aumentato del 10% gli acquisti, saliti a 140 miliardi di euro. 800 24 00 24 il numero verde per le domande dei nostri ascoltatori, oppure 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Due cose prima di partire sul nostro argomento. Un'ascoltatrice, Carla, ci scrive un messaggio a proposito del tema che abbiamo affrontato questa mattina, soldi e dintorni, sul rilascio del passaporto biometrico che avviene da qualche giorno in tutte le città italiane, quindi questo nuovo formato per garantire maggiore tutela ai cittadini che sono in partenza. Ci fa qualche contestazione Carla relativamente al costo del rilascio di questo passaporto che abbiamo dato questa mattina. Carla, sto facendo lavorare sulla sua domanda il mio assistente Marco Lombardo, che tra un poco magari la contatta per darle tutti quanti i chiarimenti. Non abbiamo dato informazioni false, probabilmente non si è ben capito appunto quello che abbiamo detto relativamente al costo, ma un conto è il costo del passaporto, un conto è il costo della marca da bollo che va appunto associata al passaporto. Comunque la chiamiamo, non è il tema di Salvadanaio, quindi le chiariremo tutti i suoi dubbi. Altro ascoltatore che ci sta tempestando di messaggi da due giorni è Giorgio da Carbonia sui Tango Bond, che dice che non stiamo aggiornando sull'argomento. Giorgio, io credo che se Salvadanaio ha un merito è quello di aver monitorato la vicenda dei Tango Bond dal 2001 ad oggi più di ogni altro organo di informazione. Abbiamo fatto almeno 4 puntate nell'ultimo mese, soprattutto nel corso del radio show del governo argentino sulla seconda offerta pubblica di scambio, quindi se lei si è perso queste puntate mi dispiace, e adesso se la task force argentina deve fare un aggiornamento sul suo sito non è colpa nostra, ma quantomeno Salvadanaio su questo argomento è stato presentissimo. Avvocato Carbone, che sudate che faccio da questa trasmissione, immagino tutte quelle che fa lei quando arriva qualche risparmiatore, si è preso un prodotto di investimento che non ha ben capito, addirittura pensa, medita di denunciare la banca, come è avvenuto per tanti risparmiatori, certo, con Tango, certo, bond in possesso, e che hanno appunto avviato l'azione legale non intravedendo altro spiraglio di luce per rientrare in possesso dei propri investimenti. Non è questo il tema di stamattina, ma le capita anche frequentemente di assistere clienti bancari che hanno magari comprato un'obbligazione bancaria pensando di aver fatto l'investimento più tranquillo, quasi il titolo di Stato, invece scoprono che hanno comprato qualcosa di più complesso e addirittura vogliono denunciare la banca? Adesso non vorrei essere così drastica nella trasmissione, ma parlare anche di aspetti di mercato, però per curiosità, visto che sì, l'ascoltatore ci ha... Ci sono stati dei casi di questa natura, peraltro più legati alle obbligazioni di natura strutturata, che spesso i risparmiatori non hanno la consapevolezza essere strumenti finanziari di altissimo rischio. Quindi sul discorso delle obbligazioni di tipo tradizionale, sì, è vero il fenomeno che avete detto voi: negli ultimi due anni le banche hanno molto puntato su questi strumenti per autofinanziarsi. È sicuramente altrettanto vero che il rendimento è talvolta di qualche decimo di punto inferiore rispetto ai BTP, e magari sono illiquidi o un poco più opachi nella loro modalità di collocamento, però fondamentalmente, siccome nessuno dubita della solidità delle banche, si tratta di investimenti sicuri. Discorso diverso invece per le obbligazioni strutturate, perché spesso i risparmiatori credono di aver investito in strumenti finanziari appunto che ritengono sicuri nella corrispondenza loro degli interessi magari di una certa entità e del rimborso del capitale investito, invece poi si accorgono che in realtà così non è stato, proprio perché queste obbligazioni sono caratterizzate da un contratto sottostante, un contratto derivato sottostante, spesso legato ad operazioni speculative sulle azioni, sugli indici dei prezzi, al consumo, fondi o delle materie prime, e conseguentemente sono soggetti a delle oscillazioni di prezzo molto molto rilevanti. Salvadanaio oggi affronta un tema di risparmio, il tema degli investimenti delle famiglie italiane sui bond, le obbligazioni bancarie. Nel 95 le famiglie investivano in questi prodotti solo il 2% del proprio patrimonio, nel 2009 la percentuale era salita al 10,4%, cifre fornite dal presidente della Consob Cardia nella sua relazione annuale di 2 settimane fa. E allora, qual è il corretto approccio a questi prodotti di investimento? Come mai sono così largamente diffusi fra le famiglie italiane? Stamattina ne parliamo con l'avvocato Carlo Carbone e con Matteo Trotta, analista finanziario di Consultic, che non ho ancora sentito. Trotta, rieccoci. Allora, l'avvocato Carbone prima ci ha spiegato la differenza fra il bond bancario, quindi l'obbligazione bancaria semplice, e l'obbligazione un po' più complessa, quella strutturata. Tutte le banche ne emettono, Trotta? Sì, tutte le banche. Perché in Italia abbiamo soprattutto molte banche straniere che riescono a fare una grande distribuzione di questi prodotti. C'era tra l'altro una tabella molto articolata di Affari e Finanza di Repubblica lunedì scorso, quindi anche con questi prodotti le banche si fanno guerra in qualche maniera in grandi azioni di marketing. Quali le capita di analizzare con il suo lavoro di analista finanziario, Trotta? Allora, parlando delle obbligazioni strutturate, la maggior parte, relativamente fino al 2008 e anche al 2009, erano quelle legate non all'andamento dei tassi di interesse, ma quelle, diciamo, ibride, legate all'andamento di indici azionari, panieri di fondi azionari, valute, ma anche materie prime. Da un certo punto in poi, anche grazie all'ingresso delle banche straniere che hanno emesso queste obbligazioni strutturate, si sono, diciamo così, il panorama bancario si è tuffato su l'attuale curva dei tassi di interesse, cercando di creare delle obbligazioni che consentissero, visto i bassi rendimenti nel breve periodo a 1-2 anni intorno all'1%, di cercare di aumentare il rendimento magari andando a scommettere su tassi a lunga scadenza, oppure al differenziale dei tassi fra lunga scadenza e breve scadenza, quindi cercare di creare un attimino di maggior rendimento rispetto all'andamento dei tassi monetari, che erano francamente molto bassi. Maggior rendimento che spesso però non si è riuscito a raggiungere, perché leggevo anche da qualche pezzo scritto dal collega Il Sole 24 Ore Moria Longo, ma anche gli stessi autori di questo dossier pubblicato da Repubblica lunedì scorso, rendimenti che in realtà non sono frequentemente superiori, per esempio, a titoli di Stato magari di pari scadenza. Anzi, a parità di rating tra obbligazione bancaria e titolo di Stato, il rendimento dell'obbligazione bancaria è inferiore. Allora, dobbiamo dividere un attimino le due cose. Un conto sono le obbligazioni bancarie tradizionali a tasso fisso e a tasso variabile, un altro conto sono le obbligazioni strutturate. Le obbligazioni a tasso fisso o tasso variabile, così come sono i nostri BTP e i CCT emessi dallo Stato italiano, effettivamente hanno un minor rendimento rispetto ai rendimenti dello Stato italiano. Però c'è anche da dire che in una fase di collocamento questo minor rendimento a volte viene esplicitato nei costi di caricamento in una fase di emissione di un titolo, quindi molto spesso esplicitato è implicito. No, in molti prospetti informativi viene detto che ad esempio la componente obbligazionaria è il 96%, mentre il 4% sono le commissioni di collocamento. Molto spesso questo 4%, 3%, 2% a seconda dei casi, spalmato sulla durata del prestito obbligazionario, rappresenta proprio quel minor interesse che la banca paga rispetto a un BTP italiano. Ho capito. Mentre per quanto riguarda le obbligazioni strutturate, soprattutto quelle che scommettono sui tassi di interesse a lunga, breve, differenziali, lì bisogna tenere in considerazione l'andamento proprio del mercato, perché teniamo in considerazione che quando un emittente emette un'obbligazione del genere ha come obiettivo la minimizzazione del costo delle cedole, mentre l'investitore fa la scommessa opposta, cioè la massimizzazione del rendimento. E molto spesso queste scommesse implicite nelle obbligazioni strutturate danno ragione a chi le emette. No, io stavo ragionando intanto sulla sua come dire, proprietà di linguaggio e la capacità di spiegare in termini molto semplici la dinamica di questi prodotti. Sfido però la platea indistinta dei risparmiatori a capirla quando ci si trova magari con un bel gruzzoletto allo sportello bancario e si cerca appunto di capire quale può essere il miglior prodotto per conservarlo al meglio. Avvocato Carbone, qui torno a lei. È ovvio che come per tutti i prodotti di investimento, anche questi sono hanno allegato un prospetto informativo che è tutt'altro che semplice da leggere, non è certamente piacevole come un bel romanzo, sono documenti sempre complessi. So che il suggerimento da rivolgere a tutti sarebbe di leggerlo attentamente, però siccome ci fidiamo anche della banca e del consulente che ci suggerisce questo prodotto di investimento, allora io magari le chiedo di aiutarci a fare le domande giuste all'intermediario quando prendiamo un prodotto di questo tipo, perché io capisco che lei ci suggerirà andatevi a leggere il prospetto, ma magari di dirci quali sono le parti che assolutamente non possiamo farci sfuggire di questo prospetto, perché leggerlo tutto veramente mette un po' il mal di stomaco, non trova? Certo, assolutamente, anche se in realtà, come insomma ha detto lei, io suggerisco sempre di leggere attentamente il prospetto informativo e soprattutto leggere quella paginetta e mezza del prospetto informativo che riguarda i fattori, il capitolo che è titolato Fattori di rischio. Lì noi riusciamo a comprendere come è strutturata l'obbligazione e conseguentemente possiamo capire se si tratta di un investimento a noi adatto o meno. Poi certo si possono fare tante domande al promotore finanziario, anzi vanno fatte, soprattutto se non comprendiamo fino in fondo il prodotto attraverso il quale vogliamo investire i nostri quattrini, che vanno dal rendimento, dalla garanzia del capitale a scadenza, perché spesso abbiamo visto che sì, veniva pubblicizzato, veniva detto che a scadenza il capitale era garantito, però a condizione che il soggetto su cui poggiava l'obbligazione strutturata non fallisse. Questa è una delle ipotesi che tantissimi risparmiatori hanno purtroppo pagato sulla propria pelle, perché ad esempio tante obbligazioni di questa natura strutturate sulle Lehman Brothers prevedeva infatti proprio questo caso. Diciamo che il termine garantito ci induce spesso appunto a pensare che abbiamo sottoscritto un prodotto che davvero riportiamo a casa integralmente quando arriva a scadenza, invece la garanzia non è mai totale in sostanza. Esatto, esatto. Infatti la sorpresa poi appunto si verifica quando si crea quell'evento che era inserito nel contratto di rischio sul quale che grava sul risparmiatore e quest'ultimo appunto poi ne subisce le conseguenze in termini spesso di perdita del proprio investimento. Quindi ecco, riporre massima attenzione alla documentazione che si sottoscrive, leggere tutti i documenti, non aver paura comunque di rivolgere domande ai promotori finanziari. Infatti. E se non si è compreso comunque non investire, tornare a casa, rileggere tutta la documentazione e magari nei giorni successivi procedere. Ecco, questo è sicuramente, ma d'altra parte è come se si fa per acquistare un'automobile piuttosto che qualche volta in certi acquisti ci si fa accompagnare, non è detto che dobbiamo sempre far da soli naturalmente, quindi non avere anche il pudore di ammettere chiaramente che una cosa non si capisce. Io voglio dire, delle obbligazioni bancarie o delle obbligazioni strutturate capisco ben poco, però proprio per questo un bel no qualche volta aiuta, avvocato. Esatto, esatto. E poi se mi sono concessi due minuti, ecco, quello che è importante è anche che i risparmiatori comprenda che quando fanno questo tipo di investimenti, in qualche modo questi investimenti muovono pure degli effetti sull'economia reale, nel senso che soprattutto soprattutto per le obbligazioni strutturate, l'abbiamo sentito anche dall'esperto, sono delle speculazioni sugli indici di borsa, sulle materie prime e così via. Quindi noi dobbiamo sapere che quando andiamo a fare questo tipo di investimenti, in qualche modo noi andiamo anche ad incidere sui prezzi delle merci, dei beni sul sottostante. Quindi paradossalmente il risparmiatore poi si può trovare a dover pagare l'effetto di queste operazioni speculative in termini di aumento ad esempio del prezzo della benzina piuttosto che di altre materie prime. Questo riteniamo sia una cosa molto importante perché crea quel collegamento tra la scelta del singolo, che quando poi però diventa di massa ha una sua influenza, e l'economia reale del paese. In questo abbiamo organizzato un convegno. Esatto. Avvocato, se ha un minutino di pazienza, glielo faccio anticipare fra qualche istante perché devo ritornare in pausa. Devo anche salutare Nicola da Milano, che è un ascoltatore che aspetta da un po'. Nicola, mi dà un minutino di pazienza che sentiamo i suggerimenti, perché in viaggio poi vengo anche alla sua riflessione. Abbiamo partito un po' concitati oggi con Salva Danaio, quindi stiamo concentrando tutte le nostre riflessioni nella seconda parte dell'ora e dei 45 minuti a nostra disposizione. Nicola da Milano, è il suo momento, buongiorno. Scusi, spengo la radio. Bravo, perché sennò sento l'eco e già che sono raffreddata adesso si divento anche sorda, e che ci mancherebbe pure questa. Ci dica. Allora, sono un po' preoccupato dopo aver sentito tutto queste. No, adesso noi non volevamo naturalmente creare dell'allarmismo, questo lo volevo anche chiedere. Questo Pinocchio che ha avuto a che fare col gatto alla volta. Ci dica. No, allora, io ho sottoscritto delle obbligazioni tramite la mia banca, posso anche dire il nome? Sì. L'Intesa San Paolo. Tanto la più grande d'Italia. Un'agenzia a cui sono comunque già da tantissimi anni il cliente. Ho fatto degli investimenti sempre in obbligazioni bancarie. Diciamo che l'unica, devo essere sincero, sono sicuramente stato un po' imprudente, perché francamente non ho avuto il tempo o la voglia di leggermi proprio le varie, no? Le varie note informative che sono allegate ai prodotti. Sì. Mi sono praticamente comunque fidato sempre del funzionario che seguiva da anni prima mio padre, che purtroppo è venuto a mancare alcuni anni fa, e che investiva sempre in botte, sempre solo in botte. Allora lui mi disse: senta, adesso che mi spiace per suo padre, le faccio tante condoglianze, però è venuto il momento di investire un po' più in maniera, diciamo, un po' più incisiva, no? Non nei soliti botte, perché a me non danno più nulla. E poi tenga presente che io quello che le propongo, questo mi ha sempre detto questo, quello che propongo a lei io lo propongo ai pensionati, quindi vada tranquillo, rischio basso, se si fidi non si preoccupi. Se c'è qualcosa che non capisce, me lo può chiedere. Tanto guarda. Benissimo. Beh, comunque, insomma, mi sembra un approccio corretto da parte del suo consulente. Sì, diciamo. Adesso, ma voglio dire, ha trovato poi, magari andando avanti nel tempo, che questo prodotto non sta rendendo quello che si aspettava, o l'abbiamo fatto solamente noi un po' di spavento? Sono preoccupato adesso preoccupato nel senso che adesso queste obbligazioni, per esempio, mi scadranno febbraio, marzo del prossimo anno. Le cedole le ho prese, devo dire. Un rendimento medio, non posso lamentarmi, però adesso ho detto, chi lo sa, non è che magari poi quando arriverà il momento di entrare in possesso dei miei capitali mi scatta quella sorpresa, posso in qualche modo, poniamo, rivolgermi adesso veramente a un consulente, magari pagandolo di tasca mia e portarlo. Ma può anche andare dallo stesso, Nicola, ci mancherebbe altro, adesso trotta no. mi picchia, però voglio dire, magari chiedere con qualche mese di anticipo, per esempio, che cosa ci si deve aspettare da qui a febbraio, quale magari sarà il nuovo orientamento anche del consulente bancario nel momento in cui questo capitale va a scadenza. Però per tranquillizzare Nicola e tutti gli altri che si sono, perché noi non vorremmo spaventare, solamente spiegare che qualche volta questi prodotti sono un po' più complicati di quello che ci aspettiamo e magari in prospettiva erogano rendimenti un po' inferiori rispetto alle promesse, tutto qua. Quindi partire con un po' più di prudenza quando lo sportello ce lo propongono. D'altronde, se sono stati distribuiti in maniera con così tanto successo, qualche qualità trotta questi prodotti ce l'avranno pure, o no? Mi pare che tutto sommato, Nicola, lo abbiamo spaventato noi, ma non ha avuto un rendimento insoddisfacente, le sue cedole le ha avute, quindi qualche qualità la riusciamo a trovare nelle obbligazioni bancarie? Sì, diciamo innanzitutto che la rischiosità, tra virgolette, del sistema bancario italiano percepito del mercato non è altissimo, è addirittura leggermente inferiore alla stessa rischiosità percepita dal mercato sullo Stato italiano, per cui siamo assolutamente tranquilli. Per quanto riguarda il rendimento, se ad esempio sono state obbligazioni comprate nell'arco del 2008, 2007, 2009, erano obbligazioni che avevano un rendimento in molti casi superiori a quello che garantiva lo Stato italiano, per cui il discorso è sempre lo stesso. Bisogna essere un attimino attenti nel momento in cui si sceglie un'obbligazione bancaria, di valutare magari il rendimento confrontandolo con quello dello Stato italiano e vedere se perlomeno siano allineati tutto qui. Ulteriori rischi possono essere legati alla liquidità di un titolo, ad altri elementi, però per quanto riguarda il merito di credito non ci sono problemi. Cosa dovrebbe fare secondo lei adesso correttamente il nostro ascoltatore Nicola, come potrebbe essere Giovanni, come potrebbe essere Francesco? Questo prodotto gli va a scadenza nella prima parte del prossimo anno, lui ha già avuto l'erogazione regolare delle cedole come promesso, quindi non so quale sorpresa teoricamente non positiva potrebbe trovarsi di fronte, oppure magari potrebbe rientrare tranquillamente interamente in possesso del capitale inizialmente vestito, cioè deve proprio spaventarsi e andare incontro a questa scadenza con timore, nostro ascoltatore, a suo avviso? No, assolutamente no. Io adesso non conosco il titolo in questione, però se fa parte del 99% di casi in cui il prezzo di rimborso e quindi anche di conseguenza il nominale è fissato al momento dell'emissione, il nostro ascoltatore non avrà nessun tipo di sorpresa. No, poi visto che ha anche questo buon rapporto con il suo consulente bancario, che non è un indipendente come lei, ma tutto sommato lo segue da quando era giovane, seguiva il padre, quindi sicuramente potrà andargli a fare tutte quante le domande del caso e tutte le perplessità che ha espresso a noi stamattina può tranquillamente anche farle in questa sede, e anzi poi Nicola ci scriva e ci racconti come le hanno risposto. Avvocato Carbone, ritorno da lei perché l'ho troncata brutalmente prima quando ci spiegava del convegno che state organizzando a Roma, dove si parlerà proprio della tutela del risparmio e quante ne abbiamo viste nel nostro paese negli ultimi anni. Ci sono ascoltatori che ci scrivono dei bond GM, non parlate mai General Motors, perché anche quelli ci siamo comprati in Italia, non ci siamo accontentati dei Cirio, Parmalat, Giacomelli, Argentina e quant'altro. Avvocato Carbone, cosa volete fare con questo convegno? Che tipo di proposte volete lanciare? Ma noi vogliamo intanto sensibilizzare il risparmiatore, insomma, che poi in realtà rappresenta tutto il popolo italiano, su quello che è la ricchezza che è insita nel risparmio stesso, in termini proprio di garanzia che ha il Paese nei confronti della comunità economica europea, e questo l'abbiamo visto anche con il recente successo proprio dell'Italia davanti in quel consesso, dove è riuscita a far sì che per i criteri di stabilità del Paese, di ogni Paese membro, si considerasse non soltanto il debito pubblico ma anche il debito cosiddetto aggregato, ossia incluso di quella componente legata al debito delle famiglie e ai risparmi di quest'ultime, che il cui calcolo porta l'Italia ad essere uno dei paesi più ricchi in Europa, perché altrimenti non si sarebbe spiegato il motivo per il quale l'Italia ha un ora il discorso magari è anche un po' lungo. Sì, guardi, la pregherei di sintetizzare, perché siamo già in ritardo, però esatto, il tema immagino. Quindi in sintesi ecco, come dicevo, è importante la scelta del singolo, deve essere tutelato, ci sono delle norme che non garantiscono fino in fondo i risparmiatori, soprattutto quando investono in obbligazioni di questa natura, e quello che è pure importante dire che queste scelte comunque hanno una incidenza sugli effetti dell'economia del Paese, quindi da questo nasce il convegno appunto che si terrà presso la Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto, il 13 in Roma. Aperto a tutti, avvocato? 2010. Aperto a tutti, so che lei presenterà anche il suo libro. è aperto a tutti, ingresso libero, e speriamo che siano tanti radioascoltatori che interverranno. Benissimo, l'ultima domanda Giuseppe da Monza ce la deve fare in 10 secondi, Giuseppe, grazie. Buongiorno, ci provo. Allora, il problema è che in ambiente industriale lo chiameremo del post vendita, cioè sì. Una volta piazzato l'investimento, tutto bene, tutto a posto, il promotore però sparisce, almeno il promotore della mia banca sparisce. Guardi Giuseppe, io gliel'ho fatta fare sintetica perché sapevo dove voleva andare a parare ed era stato un tema che stamattina Matteo Trotta mi aveva anche sollecitato di affrontare. Trotta, noi abbiamo un minuto di tempo, sparisce in che senso? Una volta che io ho acquistato questo prodotto dalla banca, per esempio, non so più il prezzo, che andamento ha, come faccio a controllare? Perché molte di queste obbligazioni sono però quotate al MOT, che è il segmento dei titoli obbligazionari appunto di Borsa Italiana. Allora, il problema è, come dicevo prima, che in fase di emissione le obbligazioni bancarie hanno un costo di collocamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che il giorno dopo, dopo averle acquistate, il prezzo di mercato diventa al netto di quella commissione, perché poi c'è un mercato che valuta oggettivamente questo titolo, per cui ad esempio un titolo comprato oggi a 100 in emissione, se la commissione è il 3%, domani sul mercato quoterà 97. Se c'è un mercato, in molti casi si tratta di titoli illiquidi dove l'unica controparte che può fare un prezzo nel caso in cui uno decidesse di venderla è la banca stessa. Ma ha ragione l'ascoltatore quindi quando dice che il prodotto teoricamente sparisce una volta piazzato? Il prodotto non è che sparisce, anche perché ultimamente molte obbligazioni vanno al MOT, ma anche su altre piattaforme come il TLX, però ce ne sono anche molte altre che restano nei circuiti interni della banca, per cui se uno decidesse di venderla dopo pochi giorni è probabile che può trovare la mala sorpresa. Benissimo, grazie a Matteo Trotta e avvocato Carlo Carbone. Ritorneremo su questo argomento se continuano questi bond bancari ad essere piazzati con così largo successo fra il pubblico retail. Dovremmo ritornare un po', magari cercando di recuperare anche qualche minuto nella parte iniziale del programma. Grazie ad entrambi per essere stati con noi con il minuto di ritardo. Di solito, come al solito, consegno la sigla di chiusura di Salvadanaio. Ci sentiamo domani. Buona giornata.